Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La cosa che ha fatto la Bindi è di una ha creato un danno costituzionale e democratico, perché voglio dire, non si fa a 20, a 10 ore dal voto. È stata una cosa di una cattiveria. Lei, che è una cattolica praticante, ne dovrà rispondere davanti a Dio. Capite, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ne dovrà rispondere davanti a Dio Rosy Bindi, capo della commissione antimafia parlamentare. Questa, così imbufalita, Alessandrina Lonardo, meglio conosciuta come Sandra Mastella, che si è scagliata all'aria che tira sulla 7 contro la presidente dell'antimafia Rosy Bindi, per essere stata inserita a sua volta nella lista degli impresentabili. Sapete quante polemiche sono venute fuori da questa lista, no? Pubblicata a poche ore dal voto. Torneremo naturalmente evidentemente sulla politica in questa puntata, insieme a tanti altri argomenti. E quello che vi chiedo, per interagire con i vostri due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte e poi gli SMS al 349 238 6666, lo ripeto, 349 238 6666, le vostre riflessioni su questa tornata elettorale. E anche la domanda è: ma il PD con questo 5-2 ha vinto o ha perso? E secondo voi qual è il futuro del PD con queste tensioni che lo stanno un po' squassando? Quindi rispondete sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349 238 6666. Quindi la politica, ma anche i dati Istat sull'occupazione. Sembra che la disoccupazione stia calando, che stiano aumentando i posti di lavoro. Poi entreremo più nel dettaglio dopo, e ci occuperemo anche delle dimissioni di Blatter, il monarca assoluto della FIFA, che era stato appena rieletto venerdì, nonostante tutti gli scandali tirati fuori dall'FBI. E oggi evidentemente si è dimesso proprio perché qualcuno l'ha spinto, diciamo, piuttosto energicamente a dimettersi. Anche su questo ci soffermeremo naturalmente. Poi c'è la vicenda ancora dell'incidente di Roma, provocato da ragazzi rom. Oggi sono state tensioni a Roma anche per delle manifestazioni contro i campi rom, e anche su questo argomento così delicato torneremo poi verso la fine della puntata. Insomma, come sempre, un sacco di argomenti, quindi per farla breve intanto vi racconto la giornata. L'economia italiana, la disoccupazione cala al 12,4%, ad aprile 159.000 nuovi posti, l'OCSE elogia il Jobs Act e Renzi invita avanti tutta. Grecia, l'accordo è vicino, Atene rassicura, la nostra proposta evita lo scenario del Grexit. La politica e i nuovi equilibri popolari di Mauro lasciano la maggioranza, il PD dice nulla cambia e nasce intanto il gruppo dei Fittiani. FIFA, per il dopo Blatter la sfida è tra Zico e Platini, e l'FBI indaga anche sui mondiali di Russia e Qatar. Roma, proteste contro i campi rom, resta in carcere il minorenne che era la guida dell'auto pirata, indagato anche il padre. Stati Uniti, scontro in Pennsylvania tra bus di turisti italiani e un tir, 3 morti e 14 feriti. CERN di Ginevra, collisione record, comincia la rivoluzione della fisica. E per il turismo crescono gli europei che vanno in vacanza, gli italiani, pur col budget più ridotto d'Europa, sono tra i più ottimisti. Partiamo quindi dai buoni dati, vi dicevo, che riguardano il calo della disoccupazione in Italia, che ora è al 12,4%, con 159.000 nuovi posti di lavoro ad aprile. L'OCSE, intanto l'Organizzazione Internazionale, rivede al rialzo le prospettive di crescita dell'Italia e loda il Jobs Act. Renzi twitta intanto avanti tutta, ancora più decisi, ma i sindacati invitano alla cautela e dicono aspettiamo i dati del semestre. E poi vi dicevo, ci soffermeremo dopo su questo tema, entriamo più nel dettaglio col primo ospite. Scusate tanto la voce, sempre un lascito di bronchite, uno strascico anche di bronchite. La crisi greca adesso con il nostro Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Ciao, tutto bene? Qui è solo la Grecia che continua a tenere banco. Sì, la Grecia è sempre protagonista e ogni giorno sembra lì a un passo da questo accordo. I creditori adesso sembrano diventati un pochino più buoni, meno cattivi, coi denti meno digrignati. So che c'è una cena importante stasera tra il primo ministro greco Tsipras e il presidente della Commissione europea Juncker e vari altri rappresentanti dell'Europa, però mi pare che la cosa più importante l'abbia detta il presidente della Banca Centrale Europea Draghi oggi sulla Grecia. Sì, esattamente. Innanzitutto c'è da constatare che i creditori non erano tutti uniti e quindi adesso sono più uniti, hanno finalmente anche loro fatto una proposta complessiva, quindi Fondo Monetario e Europei si sono messi d'accordo e questa era una cosa importante. In più Mario Draghi alla conferenza che ha tenuto a Francoforte, dove hanno fatto, naturalmente sono fioccate le domande sulla Grecia, ha dato in qualche modo la linea, cioè ha detto attenzione, vorremmo un accordo forte, quindi che non sia un accordo ponte estivo per poi riprendere tutto a giugno, questo naturalmente è un auspicio perché altrimenti dovrebbero fare un accordo che sia transitorio e eviti diciamo così il default di giugno, dove Atene non ha più soldi per pagare le rate. Poi ha detto attenzione, le rate del Fondo Monetario si possono raccogliere, sono 5 rate nel mese di giugno, se ne possono raccogliere in un'unica a fine mese, questo darebbe un pochino più di respiro. E infine ha parlato di un accordo sostenibile non solo per il debito, e quindi si riferiva al Fondo Monetario che vuole che naturalmente quando si fa un prestito poi sia restituito, ma anche socialmente sostenibile. Questo è un elemento molto importante perché evidentemente ha portato a ridurre le pretese dei creditori che erano impostate soprattutto su questa parola che è il surplus primario, cioè tra entrate e uscite il saldo deve essere appunto al netto degli interessi sul debito deve essere molto elevato per poter ripagare il debito. In questo momento questo 4,5 è sceso a 3, forse scenderà ancora a 2, in quest'anno si parla addirittura dello 0,8, insomma avrebbero più possibilità i greci di fare quelle politiche sociali di sostegno per sostenere appunto la loro popolazione. Questa è un po' la chiave di volta. Naturalmente dobbiamo vedere come andrà a finire questa ennesima cena, ecco. Questo ennesimo ancora una volta speriamo che non mi vada nulla storto durante la cena. Grazie Vittorio D'Aroldi intanto. Grazie a voi. Ciao Vittorio. E siamo alla politica italiana e i nuovi equilibri nel dopo elezioni, forti tensioni nel Partito Democratico, delle quali parleremo di queste tensioni più tardi. E intanto i Popolari per l'Italia di Palazzo Madama del Senato annunciano che non appoggeranno più Renzi, che ora potrà contare quindi su una maggioranza al Senato di soli 9 voti in più. L'annuncio dell'uscita arriva dall'onorevole Mario Mauro, che insieme a Tito Di Maggio passeranno all'opposizione. Sarebbe solo una formalizzazione di fatto di un comportamento, in realtà di un voto contrario che andava avanti da diverso tempo. Poi è nato il gruppo dei Fittiani, ne ha dato annuncio il presidente del Senato Pietro Grasso, l'ha comunicato in aula e come ci aveva detto Fitto anche qui a Effetto Notte qualche puntata fa, si chiameranno Conservatori Riformisti Italiani. La Questura di Salerno ha trasmesso oggi alla Procura di Roma la denuncia querela presentata ieri da Vincenzo De Luca, vincitore delle regionali in Campania, contro la presidente dell'antimafia Rosy Bindi per diffamazione. L'aveva annunciato nel momento stesso in cui era uscito il suo nome, vi ricordate, venerdì scorso, per attentato ai diritti politici, costituzionali e abuso d'ufficio. E siamo anche al caso Maroni, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta a carico del governatore lombardo Roberto Maroni, l'esponente leghista è accusato del reato di induzione indebita a promettere utilità per avere, nel maggio del 2014, esercitato pressioni sui vertici di Expo per fare ottenere un biglietto in business e un soggiorno in un albergo pluristellato di Tokyo, costo circa 6.000 euro, a Maria Grazia Paturzo. Secondo il PM Fusco, Maroni era legato a questa donna da una relazione affettiva. Se condannato, il presidente della regione Lombardia dovrebbe lasciare per via della legge Severino. All'estero, Stati Uniti, incidente nei pressi di Doppianna, in Pennsylvania, 120 km da New York, sulla Interstate 380, dove un tir si è scontrato con un bus che trasportava turisti italiani che andavano alle cascate del Niagara. Il bilancio sarebbe di 3 morti e almeno 14 feriti. Secondo il medico legale, tutte le persone a bordo erano italiane. Fra i 3 morti dell'incidente c'è l'autista del pullman stesso. Non mi pare che ci siano per il momento dettagli più precisi, dettagli ulteriori. Restiamo all'estero con l'ISIS che non demorde. In Iraq, per la chiusura della diga di Ramada, si rischia un allarme umanitario. Scontri sempre più violenti e intensi in Siria tra jihadisti dello Stato Islamico e forze governative. È il secondo giorno consecutivo nel nord-est del paese. Assaque, capoluogo dell'omonima regione maggioranza curda, è sotto attacco da giorni. Non si riesce a verificare il numero di civili uccisi durante gli attacchi. E allarme umanitario anche nella regione di Anbar, confinante con la capitale Baghdad, dopo che miliziani dello Stato Islamico hanno chiuso le condotte della diga di Ramadi sull'Eufrate, limitando l'afflusso d'acqua in alcune zone della città. Il disegno jihadista è quello di far arrivare alla resa gli abitanti del paese, che resteranno a breve senza acqua potabile. 70 persone, tra le quali probabilmente molti civili, sono state uccise in un raid aereo su Ajiwa, località nel nord dell'Iraq controllata dall'ISIS. Non è chiaro se i jet fossero iracheni o della coalizione internazionale. Per battere l'ISIS servirà almeno una generazione. A dirlo è stato il generale John Allen, inviato speciale di Washington per la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti che combatte contro gli estremisti sunniti. Allen ha ammesso che la lotta continuerà per molti anni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi adesso con la Turchia, 4 giorni dalle elezioni politiche, dal presidente Erdogan arriva la richiesta di ergastolo per il giornalista Can Dündar. Aveva pubblicato immagini di armi che la Turchia avrebbe fornito all'ISIS. E ora di nuovo in Italia, con la cronaca, a Roma si svolgeranno sabato i funerali di Corazon Abordo, la donna filippina uccisa nell'incidente di via Battistini. Oggi intanto davanti al GIP è comparso il più giovane dei due fratelli arrestati e domani tocca all'altro. Le indagini avanzano mentre la rabbia monta sotto slogan di contrapposte aree politiche. Non mi sono fermato perché ho avuto paura, guidavo io e non avevo la patente. Seduto davanti al giudice parla il minorenne rom arrestato insieme al fratello e alla moglie per il tragico incidente di via Battistini a Roma, quando a folle velocità ha travolto 9 pedoni uccidendo Corazon Abordo, una donna filippina. Tremante, a quanto riferisce l'avvocato, il giovane a cui è stato convalidato l'arresto racconta l'impatto dopo il mancato stop davanti alla volante della polizia, quindi la scelta di scappare perché temevamo, dice, di essere ammazzati. Accanto a lui al volante era seduto il padre Bato, ora indagato come i figli per concorso in omicidio volontario. Per la ragazza invece, che in passato aveva fatto anche un provino da attrice, è stata chiesta la scarcerazione. E gli sviluppi delle indagini alimentano le proteste dei comitati di quartiere scesi in strada per chiedere la chiusura dei campi rom di Via Lombroso e della Monachina, insieme a loro le bandiere di Casa Pound. Ma si ritrovano davanti alla stessa fermata di Battistini per una contromanifestazione anche gruppi di antagonisti dei centri sociali. La polizia li carica e nell'aria resta una tensione che rischia di diventare rabbia. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Poi ci torneremo su questo qui a Fetonotte stasera. Adesso invece spostiamoci su tutt'altro argomento, sulla fisica. Collisioni record al CERN di Ginevra, inizia la rivoluzione appunto della fisica. Potrebbero arrivare grandi novità nel mondo della fisica. Luca Malgeri, fisico del CERN, ci spiega quali sono le potenzialità dell'acceleratore di particelle di Ginevra. Permette di esplorare tutti praticamente i possibili settori di nuova fisica, che potrebbe essere scoperte di nuove particelle ad alta massa, oppure scoperte di nuove forze, di nuove interazioni in target che sappiamo dovrebbe essere la portata dell'LHC adesso, e quella che si chiama la materia oscura. Raggiungere questi obiettivi sarà possibile grazie a un potenziamento del macchinario che aveva portato in passato alla rilevazione del bosone di Higgs. Malgeri ci descrive le caratteristiche del progetto inaugurato. È un secondo step con due cose che cambiano, che sono sostanziali. La prima cosa è l'energia disponibile in ogni singola collisione. E la seconda cosa che cambia è che anche l'intensità, cioè il numero delle collisioni che riusciamo ad avere per secondo. L'acceleratore raccoglierà in modo continuato dati per i prossimi 2 o 3 anni, ma non si può prevedere quando ci saranno i primi risultati. It's a great moment. È un passo storico per la fisica e la tecnologia, dice Fabiola Gianotti, direttore del CERN dal prossimo 1 gennaio. Enrico Forzinetti, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi il turismo. Dopo 3 anni di calo, gli europei tornano ottimisti in fatto di vacanza. Il 60% dichiara che andrà in ferie, con un aumento di 6 punti sul 2014. Emerge questo dalla 15ª edizione del barometro vacanze realizzato da Ipsos per Europa Assistance. Gli italiani sono tra i più ottimisti, con una crescita al di sopra della media dal 52% al 60%. Le note dolenti arrivano dal denaro a disposizione. Il budget medio si alza, ma nei paesi latini subisce una leggera riduzione. Fanalino di coda della classifica è proprio l'Italia, con una riduzione del budget di 90 euro. Per chiudere, il tennis, con un netto 6-1-6-3, Serena Williams ha sconfitto ai quarti del Roland Garros Sara Errani, quindi l'Italia del tennis saluta il tabellone femminile dell'Open francese. Noi invece ci salutiamo brevissimamente solo per aggiornare chi sta viaggiando. Vedo intanto i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, questo è il numero per gli sms. A proposito del PD, di chi ha vinto e chi ha perso queste elezioni, della vostra percezione e anche di quello che pensate possa essere il futuro di questo partito. Si citava naturalmente anche tutto il putiferio emerso dopo la lista degli impresentabili. Dice Francesco da Piacenza: la Bindi non si è comportata molto bene, ma è comunque una gigante rispetto alla moglie di Mastella, che farebbe meglio tacere. Vi avevo fatto sentire che ha detto che ne risponderà davanti a Dio la Bindi. E poi Andrea da Bologna dice: avanti tutta, dice Matteo Renzi, se continua così fa un'ottima campagna elettorale per la Lega. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo Ulisse che scrive al 349-238-6666, nessuno parla dell'enorme astensionismo, come mi sembra che tutti l'abbiano sottolineato, questo elemento che fa capire effettivamente che c'è una disaffezione molto forte nei confronti della politica, quindi anche quelli che hanno vinto, anche come il PD, però hanno perso per esempio il PD rispetto alle europee 2 milioni di voti. Quindi dice poi: a sinistra litigi, a destra litigi, 5 stelle, l'antipolitica contro tutti, la politica è perdente, questo è il dato di fatto. Poi prosegue con i vostri messaggi. Intanto però vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento invece che le 21 puntuali, quali sono le notizie principali del giorno. La disoccupazione in Italia cala al 12,4%, 159.000 nuovi posti di lavoro ad aprile, bene pare anche per i giovani. Renzi dice: ora avanti tutta. Grecia, l'intesa sembra un passo. Draghi sottolinea: serve un accordo forte. Il primo ministro Tsipras stasera è dal presidente della Commissione europea Juncker a cena, e c'è tutto il pressing di Merkel e Hollande. Renzi perde due popolari, due del Popolare per la Libertà al Senato, se ne vanno dalla maggioranza che si riduce quindi a Palazzo Madama. Nasce intanto anche il gruppo dei Fittiani, sono in 12. Incidente negli Stati Uniti, in Pennsylvania, con un bus di turisti italiani, 3 morti, andavano alle cascate del Niagara, alcuni feriti sono gravi, non c'è ancora un bilancio preciso. FIFA, l'FBI indaga anche sui mondiali di Russia e Qatar, e intanto parte la corsa per il dopo Blatter tra Zico che sfida Platini. E a questo punto soffermiamoci sulla pagina economica. Vi dicevo, c'è il rapporto, l'Economic Outlook, il rapporto dell'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che alza le previsioni di crescita per l'Italia, elogia anche il Jobs Act. L'OCSE ha abbassato in realtà le sue previsioni sulla crescita globale dopo i dati deludenti del primo trimestre, ma la cosa particolare è che invece al tempo stesso ha rivisto in meglio le stime sull'Italia per l'anno prossimo, per il 2016. Quindi questo già un dato positivo. E proprio avviene questo nel giorno in cui l'Istat fa emergere dei dati incoraggianti sul lavoro, con 159.000 occupati in più ad aprile, e proprio l'OCSE oggi aveva anche detto che il Jobs Act può migliorare drasticamente il mercato. Chiamo in causa Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Vogliamo sentire anche cosa ha detto Padoan a proposito di questi elogi, a proposito di questi buoni dati Istat. Sentiamo. La via giusta è quella di far funzionare le riforme del mercato del lavoro, vedere gli effetti delle agevolazioni fiscali ai contratti a tempo indeterminato, l'abbattimento della parte fiscale del costo del lavoro. Tutte queste cose produrranno effetti che saranno visibili in misura crescente nel tempo. Dunque tutto positivo, Alberto? Indubbiamente oggi la giornata volge al bello, per usare terminologie meteorologiche, non c'è dubbio. Soprattutto è lusinghiero il report, l'outlook dell'OCSE, in effetti, che fa stagliare una performance italiana particolarmente positiva rispetto invece a un quadro europeo un po' più calante, per così dire. Quindi questo dà il segno che effettivamente alcune delle riforme fatte vanno nella direzione giusta, certo bisogna consolidarle, bisogna fare delle altre. Se poi si va a guardare il dato qualitativo, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro, sì, c'è un miglioramento di 0,2 punti percentuali sul tasso di disoccupazione, che è al 12,4, sì, siamo ancora reduci dalle ubriacature delle percentuali politiche. 12,4% è comunque un partito molto consistente ancora, ahimè. È migliorata la disoccupazione giovanile, ci sono 159.000 occupati in più, e questo è importante, così come l'altro dato importante è che ci sono 104.000 inattivi in meno, e che nel complesso in regione d'anno diventano 380.000. Questo forse è il dato più importante, perché, come forse abbiamo ragionato altre volte, si svuota il contenitore della disperazione, che è quello degli inattivi, che sono quelli che non cercano un lavoro, non si danno da fare, non studiano, cioè quelli che sono proprio scoraggiati, e vanno normalmente a rimpinguare la categoria dei disoccupati, che sono quelli che invece un lavoro lo cercano attivamente, che peraltro questa volta nel dato di aprile si è svuotato di altre 40.000 unità. Quindi questo travaso dalla disperazione alla disoccupazione attiva, dalla disoccupazione all'occupazione, sta effettivamente funzionando. Poi è un fenomeno che al suo interno vede anche la cessazione della cassa integrazione, cioè le aziende che stanno recuperando commesse, soprattutto con l'export grazie all'euro debole, recuperano il personale che avevano messo in cassa integrazione, quindi rimpinguano gli organici con chi già avevano assunto praticamente, e questo è il motivo per cui si sta ricreando ancora occupazione, soprattutto anche nella fascia degli over 50, perché la cassa integrazione dall'inizio d'anno è calata di oltre il 35%, e questo è anche un altro indicatore strutturale che l'economia sta un po' girando. Resta un brutto dato, che è quello dell'occupazione di lunga durata, cioè da chi sta cercando lavoro da più di un anno, che è diventato, è un, leggermente in calo, ma comunque è una porzione molto grossa del totale di disoccupati, è del 57,1%. Questo è un dato che va aggredito di più, perché è lo zoccolo duro dei senza lavoro, che invece nel corso del tempo è auspicabile che possa ridursi chiaramente. Tutto questo è molto legato ancora a fasi stagionali contingenti, quindi non è il caso di cantare vittoria e entusiasmarsi troppo, perché potrebbe anche cambiare il vento rapidamente. Quello che poi oggi Draghi ha detto e va combinato con quello che si diceva prima dell'outlook dell'Ocse è preoccupante, perché dice la BCE ha riscontrato nel secondo trimestre l'Europa sta crescendo meno delle attese, quindi l'Europa, la ripresa, addirittura la ripresa continentale è fragile. Se è fragile la ripresa continentale, figuriamoci la nostra. Già, grazie di questo pensiero lucido e raziocinante, Alberto Rioli. Grazie a voi. Grazie, ciao. Buona serata. Ora ci spostiamo sulla politica, sul dopo elezioni, con tutte le polemiche che ci sono state, con i risultati che vi sono stati di un 5-2 per il centrosinistra, per il PD, che però perde 2 milioni di voti rispetto al 2014, quindi alle europee. Molti hanno detto vabbè, ma non ha senso fare il confronto con le europee quando aveva avuto il PD il 40%, però comunque ne ha persi il PD 1.083.557 di voti rispetto alle politiche del 2013, quando era segretario Pierluigi Bersani. In realtà per l'astensione di cui si parlava prima è andata male anche, e non solo per l'astensione, comunque è sceso anche il Movimento 5 Stelle, Forza Italia. L'unico che può cantare vittoria è Salvini, leader della Lega, perché la Lega sicuramente è cresciuta e soprattutto anche ha sbalordito la crescita in due regioni considerate rosse come la Toscana e l'Umbria. Ma al di là di questo, intanto saluto subito il professor politologo Gianfranco Pasquino. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Se lei dovesse dire così d'impatto, ma il PD ha vinto o ha perso in queste elezioni? Il PD certamente non ha vinto, perché questo 5-2 è semplicemente la stessa cifra che c'era prima delle elezioni. Prima delle elezioni il PD aveva 5 presidenti di regione e dopo le elezioni ha avuto 5 presidenti di regione, e il centrodestra aveva 2 presidenti di regione e ne ha avuti 2 anche dopo le elezioni. Sono cambiate, è vero, 2 presidenze, ma una è andata al centrodestra, l'altra al centrosinistra, e quindi sostanzialmente non c'è nessuna vittoria 5-2, ma c'è un pareggio. Dopodiché il PD, come diceva giustamente lei, ha perso un sacco di voti rispetto alle molto citate, molto vantate elezioni europee, e ha perso di voti anche rispetto invece alle molto criticate elezioni politiche del febbraio 2013. E questo possiamo anche andare a vedere l'astensione, tutto quello che vogliamo, però se facciamo il conto sui numeri assoluti di voti, il PD ha perso i numeri assoluti di voti. A questo punto, professor Pasquino, bisogna chiedersi perché. Allora, da una parte, per carità, è stato contingente questa storia della commissione antimafia che ha creato tutto questo putiferio, no? Seguito alla presenza all'ultimo giorno di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, e che poi ha vinto in Campania come presidente della regione, nella lista dei cosiddetti impresentabili, appunto pubblicata dalla commissione antimafia. Però a parte questo, quindi ci sono questi 2 milioni persi, c'è un problema di coesione interna al partito, quindi dell'ala sinistra, che adesso magari facciamo sentire sia Cuperlo che Speranza, due esponenti, leader dell'ala sinistra del partito. Sentiamo come argomentano questo problema interno. Quando perdi la metà dei voti di un anno fa non conviene nascondersi i problemi o scaricare le colpe su altri. Mi permetto di consigliare minore arroganza, maggiore umiltà e riflettere su quello che è accaduto. Questo è l'ex presidente del PD Cuperlo. Sentiamo adesso Speranza, che si era dimesso non molto tempo fa da capogruppo alla Camera, sempre per dissenso interno. Le riforme vanno benissimo, devono andare avanti e noi siamo convinti che il PD deve essere il partito che cambia questo paese, ma Renzi deve capire che c'è bisogno di cambiare rotta, perché questa rotta che ci fa perdere un pezzo del nostro elettorato è una rotta sbagliata. Ora guardavo anche i messaggi degli ascoltatori, per esempio Ilaria a proposito del PD, vediamo se la ritrovo, dice: io non credo che ci sia un solo PD, il vecchio ha tenuto dove invece Renzi ha osato, ha perso. Giorgio dice: in fase di trasformazione, il PD ora periodo di contrazione, sul futuro si vedrà se Renzi scommette bene o rischia troppo. Ecco, sta giocando bene la sua partita o è meglio che riveda la sua strategia Renzi, professor Pasquino? Guardi, io non mi permetterei mai di dare dei consigli a Renzi, e vorrei dire subito che sono un gufo, che lui ne sa molto di più. Io appartengo alla generazione che secondo lui non ha fatto nulla, mentre invece sono state fatte molte riforme nella mia generazione, quindi non mi interessa. Renzi si arrangi, lo dirò così brutalmente, mi dà molto fastidio come interpretano i dati i suoi sostenitori. I dati duri sono semplicissimi: le candidate donne che Renzi ha appoggiato, Alessandra Moretti e la Raffaella Paita, hanno perso alla grande, e nel caso della Paita hanno perso anche la regione. E i candidati invece che Renzi non sono, anche se Renzi è andato malauguratamente ad appoggiare De Luca, cioè De Luca e Emiliano hanno vinto, e dunque forse c'è un problema, credo. Anche Rossi in Toscana certamente non è un renziano. Io credo che se uno guida il partito, un partito deve cercare di fare funzionare tutto e non cacciare o spingere fuori una parte di quel partito, cioè le cosiddette minoranze. Se uno guida un governo deve cercare di utilizzare al meglio il potere del governo, che in questo caso riguardava anche probabilmente dire che tipo di rapporto si creerà fra il governo e le regioni, perché non tanto incidentalmente la riforma del Senato prevede che siano i consigli regionali a eleggere un certo numero di senatori. Una campagna elettorale fatta molto male, con toni di notevole arroganza, su questo ha certamente ragione Cuperlo, e senza praticamente nessuna novità. Sfido chiunque a dire che Renzi ha detto qualcosa di interessante, mentre purtroppo per lui e forse anche per noi, me lo lasci dire, Salvini dice delle cose in un certo senso anche abbastanza nuove, le dice con vigore, le dice qualche volta con toni esagerati, però certamente chiarissimi, e questo spiega in buona misura il successo di Salvini, che incidentalmente è l'unico che aumenta voti. Poi non si contano solo i voti, ma si contano anche ovviamente i consiglieri regionali. Il PD ne ha persi parecchi, e ricordo a tutti, perché sembra che il Movimento 5 Stelle non abbia avuto un successo, invece a questo punto è presente in tutti e sette i consigli regionali, dove non aveva nessun rappresentante prima di queste elezioni. Professor Pasquino, Alberto per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: in queste elezioni ha vinto l'astensionismo, sarà sempre più alto e la percentuale di chi non va a votare. L'astensionismo non vince mai, gli astensionisti non contano. Gli astensionisti qualche volta possono mandare un messaggio di insoddisfazione, di irritazione, intendiamoci, molto, molto spesso hanno perfettamente ragione, ma non è stando a casa, non è andando al mare, non è andando a giocare a carte con gli amici che si cambia la politica italiana. Chi non vota non conta, punto. E infatti i politici deglutiscono rapidamente le percentuali di astensionisti e continuano grosso modo come hanno continuato prima. In Emilia Romagna la percentuale di astensionisti è stata al 62% nelle elezioni del novembre 2014, ha vinto il candidato del PD, fra l'altro persona credo all'altezza della situazione, ha fatto una giunta abbastanza buona, e dopodiché abbiamo tutti dimenticato che il 62% degli emiliano romagnoli, che sono coloro che hanno sempre avuto un tasso di partecipazione elettorale molto alto, non sono andati alle urne. E questo bisogna tenerne conto, devono tenerne conto i partiti naturalmente. Grazie professor Gianfranco Pasquino, grazie, buona continuazione. Grazie a voi, buon lavoro. Adesso stavo guardando invece i vostri messaggi al 349-238-6666. Paolo da Como dice: conservatori riformisti. Così anche un altro ascoltatore dice: Roberta, ma come si fa un conservatore ad essere anche riformista? Questo l'avevo già chiesto a Fitto quando era stato qui ospite Effetto Notte, visto che così si chiama il suo gruppo, e aveva detto che non c'è nessuna contraddizione. Mi aveva fatto l'esempio di Cameron in Gran Bretagna, che è un conservatore, che ha fatto, una politica economica da liberale conservatore, che però per esempio ha detto di sì ai matrimoni gay, cioè è passata questa legge, e poi ha detto anche che effettivamente esiste un gruppo al Parlamento Europeo che così già si chiama. Ci prendiamo un po' di ricreazione e poi potete continuare con i vostri commenti al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sono tanti altri argomenti dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi qui a Effetto Notte fino alle 10 insieme. Guardavo ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS al 349-238-6666. Ringrazio l'ascoltatore e l'ascoltatrice per il messaggio, diciamo così, spettacolare. E poi un altro messaggio dice: ma è vero, chi non vota non conta. Questo è vero, l'ha detto il professor Pasquino, ma non perché l'ha detto lui, perché se non si va a votare qualcuno vota per te, vota per noi se ci si astiene. E poi ancora altri messaggi su Renzi, sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Elena dice: le candidate renziane hanno perso, il PD ha perso moltissimi voti, se qualcuno non ferma Renzi sarà la fine del PD. Mentre Cristiano scrive: spero che al più presto si provveda alla legge ad personam per legittimare De Luca, sarebbe davvero il sigillo sull'arrogante modestia di questo esecutivo. Continuate con le vostre riflessioni, io adesso vi rammento, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono le notizie più importanti di oggi. L'economia italiana, la disoccupazione cala al 12,4%, ad aprile 159.000 nuovi posti di lavoro, l'Ocse elogia il Jobs Act e Renzi twitta avanti tutta. Grecia, l'accordo è vicino, Atene assicura, la nostra proposta evita lo scenario dell'uscita di scena della Grecia. La politica e i nuovi equilibri popolari di Mauro lasciano la maggioranza, il PD dice che nulla cambia e nasce il gruppo dei Fittiani. FIFA, per il dopo Blatter, la sfida è tra Zico e Platini, ne parleremo tra pochissimo. Roma, proteste contro i campi Rom, resta in carcere il minorenne che era la guida dell'auto pirata, indagato anche il padre. Stati Uniti, scontro in Pennsylvania tra un bus di turisti italiani e un tir, 3 morti e 14 feriti. CERN di Ginevra, collisioni record, comincia la rivoluzione della fisica e per il turismo crescono gli europei che vanno in vacanza. Gli italiani, anche se hanno un budget basso, sembrano i più ottimisti. Bene, ora direi che con Dario Ricci qui blatteriamo. Ma sì, blatteriamo, blatteriamo un po', il mar delle blatte, insomma, abbiamo fiumi di citazioni. Che poi blatterare, no? Blatter, ma anche in inglese significa un po' cianciare, insomma, parlare così a vanvera. Sì. E insomma, a un certo punto, anche oggi ha parlato un po' a vanvera, perché sia dimesso, si è dovuto dimettere nonostante sia stato rieletto venerdì, nonostante questo scandalo tirato fuori dall'FBI di 20 anni di corruzione, di tangenti, di miliardi. E però lui aveva detto: no, uniamoci tutti perché adesso finalmente ci vuole la svolta dopo che lì da 17 anni. Invece evidentemente oggi qualcuno l'ha spinto un po' di più, Dario, per il fatto che sembra che le abbia date lui, ma secondo me non sono così spontanee queste dimissioni. Sì, beh, già ieri l'hanno spinto, oggi siamo già certo. Una pagina ormai archiviata, o meglio, il dopo Blatter è iniziato già con gli arresti di Zurigo, perché c'era un sistema di gestione del potere che con quegli arresti era arrivata al capolinea. Ora è bene chiarire che quelli che arriveranno dopo Blatter non sono né delle Ducande né delle Virginelli né l'esercito della salvezza, no, numero uno saranno, UEFA, che saranno ha fatto delle... tanto, no, per cercare di accerchiare. Guarda, Blatter, come tu sai, io sono un po' il juventino, quindi quando mi dici Platini l'ho confessato, sì, prima volta che lo dici così, sai bene che insomma il nome di Platini non risuona mai indifferente, ecco, nell'aereo per sì. Me però è chiaro che il gruppo di lavoro che verrà dopo Blatter sarà chiamato comunque a gestire miliardi di euro, il gioco più popolare al mondo, e dovrà garantire quindi uno trasparenza, sviluppo più correttezza. Sì, quantomeno realisticamente il fatto che al gioco sul campo e al gioco anche finanziario che è il calcio mondiale possano accedere più soggetti. Di solito questi sistemi, parlo in senso lato, si sclerotizzano e vanno in crisi quando non garantiscono più una fetta minima di torta per tutti, no? Fra l'altro mi sembra, Dario, che lo stesso Blatter, lui che è stato lì 17 anni, che ormai è stato definito un po' da tutte le parti il monarca assoluto, abbia detto va rifatta una regola, un codice di autoregolamentazione per cui non ci possono essere mandati così lunghi. Beh, no. Insomma, detto da lui, diciamo che si è stancato. Sì, qualcuno deve mettersi d'accordo con chi gli scrive i discorsi, perché insomma sta dicendo le cose che in questi giorni, in questi anni, qualcuno gli aveva suggerito. Di fatto, però, la situazione è abbastanza, per alcuni aspetti, è abbastanza caotica, perché a un dopo Blatter nessuno ci aveva pensato. Perché si era arrivati al congresso e prima di quei famosi arresti, di fatto con alcuni candidati. Il principe di Giordania che si era ritirato. Prima altri si erano ritirati. E lui il principe primo, di Giordania era stato voto. Comunque candidato, certo. Ma comunque di fatto era un candidato debole, così come anche riproporlo adesso è un nome debole. I veri nomi pesanti sono quelli di Platini, perché chi presiede l'UEFA con quel palmarès, con quel nome, con quell'allure, chiaramente non può non essere candidato anche alla FIFA. E poi dei nomi forse sconosciuti al grande pubblico, ne faccio due: lo sceicco del Kuwait, Al Sabah. Ma perché poi ci vuole uno sceicco, scusami, a governare il calcio mondiale, o il principe anche di Giordania, per dire, no? Perché l'asse del c'è questa calcio... vocazione un po' da monarchia, effettivamente. O no? Ma sicuramente è un sistema gerarchico e soprattutto che c'è una pangea continentale, per cui gli assi tradizionali del calcio mondiale, che sono Sud America ed Europa, si trovano ora a confrontarsi con l'Asia, che ha milioni di appassionati, mercato, liquidità. No, quello senza dubbio, quindi... ma un tecnico, non so, una figura... Non è detto che poi un ex calciatore, cioè il fatto meglio. Di essere ex calciatore non garantisce che tu sia buono, che tu sia onesto. Negli sport tu hai conosciuto il meglio, ma anche forse il peggio del calcio. Quindi insomma è un discorso che può essere applicato a tantissime categorie. Altro nome interessante è il sudcoreano Chung Mong-yeon. Ripetilo. Chung Mong-yeon. Ah, sì. Che è già allenato. Sì, mi sono preparato prima di venire in onda. Che è l'erede dell'impero Hyundai. Hyundai, nome importante perché grande sponsor delle ultime manifestazioni calcistiche mondiali. Ecco, sono questi i nomi su cui piano piano dovremo concentrare l'attenzione, piuttosto che vari Zico, Figo, eccetera, eccetera. Anche se poi è pur vero che, come Platini, è stato grande campione e, devo dire, dirigente illuminato, nel senso che ha comunque un suo programma che sta mettendo in atto, pur tra mille difficoltà, anche questi ex potrebbero riservare delle sorprese tempi? Positive. Tempi per I tempi ci abbiamo un passaggio obbligato, che è quello che è stato indicato dallo stesso Blatter, per paradosso, cioè tra dicembre 2015 e il marzo 2016, quindi non immediati. Quindi Blatter sta ancora lì? Sì, è un facente funzione, possiamo anche chiederci perché, lo diciamo anche ieri con Gigi Donelli. Probabilmente, insomma, quando un monarca di tal fatta e di tal forza decide di farsi da parte... Deve prima sistemare un po' di cose? Beh, probabilmente ha avuto anche ancora dei margini di trattativa, seppur strettissimi. Capiremo, come si dice, solo vivendo quali siano stati. Di fatto l'inchiesta va avanti, sicuramente Blatter ne sa più di noi di questa inchiesta, perché altrimenti non si sarebbe fatto eleggere il venerdì per poi dimettersi ieri. Però ecco, questo scenario, questa è la tempistica: tra il dicembre prossimo e il marzo 2016 ci sarà questo congresso straordinario della FIFA che eleggerà il suo successore. Da questo momento in poi inizia una grande volata. Adesso c'è una pausa tecnica, che è quella che porta sabato a Berlino alla Champions League, la finale di Champions League. Sarebbe stata la catastrofe arrivare a Berlino con questo grande appuntamento di calcio giocato e sporcarlo con magari trovarsi la UEFA che il venerdì mattina decideva di staccarsi dalla FIFA, no? Non a caso, appena Blatter si è dimesso, Platini ha sospeso questo meeting UEFA che era previsto proprio a Berlino il venerdì. Quindi fino a sabato si pensa al calcio giocato, la stagione poi si chiude, la vedremo e poi la vedremo. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dare la gestione del calcio agli arabi è come far gestire il Polo Nord alle tribù dell'Amazzonia, così dice un'ascoltatrice o ascoltatore. Non si firma al 349-238-6666, mettete almeno uno pseudonimo, un nome d'arte, qualcosa, e poi gli altri invece al pagina Facebook di Effetto Notte, dove invece i nomi ci sono. Poi Ettore dice l'astinenza elettorale è l'unica accettabile, addirittura l'astinenza che insomma evoca un significato particolare. Adesso invece vi ricorderei velocemente quali sono le notizie più importanti del giorno e poi passiamo agli altri temi. Allora, abbiamo detto che c'è un calo della disoccupazione, secondo i dati Istat cala la disoccupazione al 12,4%, ci sarebbero ad aprile 159.000 nuovi posti di lavoro, Renzi twitta ora avanti tutta. E poi per la Grecia un'intesa che sembra ormai a un passo e Draghi, presidente della BCE, che dice serve un accordo forte. Tsipras a cena sta incontrando Juncker, presidente della Commissione Europea. E poi Renzi che perde nella maggioranza due popolari al Senato, che si riduce quindi la maggioranza a Palazzo Madama, nasce anche il gruppo dei fittiani, sono in 12. C'è stato un incidente negli Stati Uniti, in Pennsylvania, un bus di turisti italiani contro un tir, 3 morti, di cui l'autista, andavano alle cascate nel Niagara, alcuni sono feriti gravi, ma non ci sono ancora dettagli più precisi. Poi della FIFA, dell'FBI che indaga anche sui mondiali di Russia e Qatar, e della corsa che è già iniziata e dopo Blatter ne abbiamo appena parlato. Inchiesta Lombardia, pressioni di Maroni per due collaboratrici, il reato è nella legge Severino. Lui, Maroni, dice sono tranquillissimo rispetto a questa accusa della procura di Milano. E poi alta tensione sui Rom, scontri al sit-in di Casa Pound a Roma, anche di questo parleremo tra poco. Europa 24 notte. Ora invece ci occupiamo dello spazio europeo con Sergio Nava, che è lì a Bruxelles. Ciao Sergio. Ciao Roberta. E a Bruxelles e l'Europa proprio lì discute di aiuti allo sviluppo. Lo sviluppo di chi, Sergio? Diciamo allora, è iniziata oggi e proseguirà fino a domani la 2 giorni delle giornate europee per lo sviluppo, che è un appuntamento annuale che però quest'anno assume una valenza particolare perché è l'anno, questo è il 2015, è l'anno europeo dello sviluppo. Sostanzialmente si tratta degli aiuti che l'Europa, i paesi europei danno ai paesi in via di sviluppo, comunque del terzo mondo, per ovviamente aiutarli a crescere, insomma a uscire anche da questa condizione. Cioè, si gioca intorno a questo una partita importante perché l'Europa ha un obiettivo preciso, che è arrivare a una media dello 0,7% del PIL in aiuti allo sviluppo, e in questo momento solo alcuni paesi possono vantare una media pari o superiore, tra questi c'è la Svezia, la Gran Bretagna, solo per fare un esempio, mentre l'Italia naviga nella parte medio-bassa della classifica, anche se sta facendo comunque qualche progresso. E soprattutto nell'ultimo Consiglio dei Ministri di settore c'è stata un po' la delusione, e oggi l'ha rimarcato anche un po' il Presidente della Commissione Europea Juncker, del fatto che non si è data una scadenza certa per arrivare a un limite vincolante per tutti sullo 0,7%. Infatti Juncker ha detto che alcuni paesi hanno fatto dei passi indietro, servono sforzi più precisi, e il presidente dell'Europarlamento Schulz invece ha sottolineato come quest'anno debba poi essere un anno che fa la differenza, anche perché a luglio ci sarà ad Addis Abeba una conferenza internazionale sugli aiuti allo sviluppo, che dovrebbe essere un po' la chiave di volta. All'interno di questo processo, tra novembre e dicembre, poi ci sarà la famosa conferenza di Parigi sul clima, che rientra poi in tutto questo, se vogliamo, discorso relativo alla sostenibilità, alla crescita sostenibile, eccetera. Quindi possiamo definirlo un grande seminario, un grande evento, quello di Bruxelles, di questi 2 giorni, in cui si fa il punto, si scambiano buone pratiche, si discute anche di quello di dove sta andando un po' questo pianeta. È stato a proposito anche interessante il dibattito che c'è stato tra Sam Kutesa, che è il presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, e l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini stasera, proprio sulla governance del mondo. Quindi una grande conferenza che ci fa un po' ragionare su una dimensione un po' più allargata rispetto alla nostra piccola Europa. Grazie Sergio Nava, grazie Sergio. Grazie da Bruxelles. E adesso invece Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Viaggiorno, dicevo, su, ancora sulla FIFA, sullo scandalo della FIFA, di Blatter, eccetera. Chuck Blazer, la gola profonda delle indagini delle autorità americane sulla FIFA, quindi tra i dirigenti indagati, ammette: sono state accettate tangenti per la scelta del Sudafrica per ospitare i mondiali del 2010, e quanto emerge dalla trascrizione dell'interrogatorio di Blazer, che già era stato interrogato nel passato, trascrizione sulla quale la corte americana ha rimosso adesso il segreto. E quante cose ancora dovranno venire fuori. Adesso invece ci soffermiamo di nuovo sull'incidente di Roma di mercoledì scorso, in cui, sapete, è morta una donna filippina di 44 anni, altre 8 persone sono rimaste ferite. La Procura di Roma adesso, questa è la notizia di oggi, contesta il reato di concorso in omicidio anche al padre dei due ragazzi fermati per quell'incidente. Gli inquirenti adesso sono al lavoro per chiarire se l'uomo fosse a bordo dell'auto, e oggi sono iniziati gli interrogatori dei due giovani, oggi del minorenne, del più giovane, domani sarà la volta di quello più grande, che probabilmente, da quello che dice il suo avvocato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Questo fatto, come sapete, non solo ha suscitato dolore, clamore, sdegno, ma è entrato anche in qualche modo a far parte della campagna elettorale, no? Principalmente di quella della Lega Nord, che già da tempo contesta la presenza dei campi Rom. Ora c'è questa novità, è che il Comune di Roma, allora intanto oggi c'è stata una manifestazione, vi dicevo prima nel riassunto della giornata, a Roma, un sit-in di Casa Pound, del gruppo di estrema destra, contro gli accampamenti Rom. Ci sono stati dei disordini, sono arrivati anche giovani dai centri sociali, è arrivata la polizia. Ora vi dicevo, c'è una novità, che il Comune di Roma farà un censimento dei campi Rom per far sì che i nomadi considerati abbienti, che magari in certi casi hanno anche delle proprietà immobiliari, non pesino più sulla collettività, e anche con lo scopo di superare i campi Rom. Tutto questo in base a un'indicazione del governo. Ne parliamo con Carlo Stasolla, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'accoglienza. Grazie a lei della disponibilità. Presidente dell'associazione 21 luglio, che è l'organizzazione no profit impegnata nella promozione dei diritti umani di Rom e Sinti a Roma e in Italia. Che cosa ne pensa di quanto accaduto e anche di questo censimento che farà il Comune di Roma? Stasolla. Beh, il fatto con quanto accaduto a Battistini è sicuramente grave, ma questo è inutile dirlo. Ciò che è grave però è anche aver associato il DNA di un popolo, di una comunità, con un fatto individuale. Quindi cavalcare questo nel periodo delle campagne elettorali è stato estremamente grave, ha portato, diciamo, un grave danno a quella che è anche la condizione delle comunità rom e sinti, una condizione difficile. La risposta del Comune è una risposta abbastanza ovvia, ma anche in passato ci sono stati questi tentativi. In realtà noi critichiamo questa forma di approccio, perché non perché critichiamo il fatto che non vadano ad allontanare le persone che sono abbienti, che quindi da sole devono cercare un percorso di inclusione, ma perché manca un piano organico reale di superamento dei campi. Cioè questa amministrazione ancora non ha detto come, se e come vuole chiudere i campi. Ma voi sta sola un'idea, una proposta ce l'avete? Visto che vi occupate. Assolutamente sì, noi abbiamo redatto un rapporto l'anno scorso dove abbiamo dimostrato che il Comune di Roma ogni anno spende, lo ha fatto nel 2013, circa 23 milioni di euro. Se noi mettiamo insieme i 23 milioni di euro spesi per la gestione dei campi, senza che nulla vada a Rom, tra l'altro, e quello che è l'immenso patrimonio immobiliare del Comune di Roma abbandonato, si parla di decine di migliaia di ettari, è facile dare risposte abitative, ma qui non solo a Roma, ma tutto il mondo che gravita attorno al disagio abitativo della città. Quindi questa potrebbe essere una soluzione piuttosto indolore, perché si continua a ripetere questo patrimonio immobiliare lasciato così vuoto, non soltanto a Roma. Quindi questa potrebbe essere la soluzione. Migliorerebbe la situazione di Roma anche da un punto di vista di quello che poi faranno nella vita, perché sa, anche per quanto riguarda questi due giovani arrestati, si parla di piccoli furti, di reati. Guardi, io le do un dato: a Roma ci sono 8.000 Rom, a Madrid ce ne sono 88.000. A Madrid non esistono campi nomadi, i Rom sono perfettamente inclusi, siedono sugli scranni del Parlamento, sia municipale, sia comunale, sia regionale. Quindi ecco, investire sull'inclusione significa poi avere grandi ricadute in termini sociali, ma anche economici, nella città. Carlo Stasolla, io la ringrazio e tanto torneremo a parlare ancora molte volte di questo tema. Grazie ancora, buona continuazione. Grazie a voi. Noi ci lasciamo e poi sapete che vi aggiorno sempre sulle notizie più importanti alle 22.